navi da combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi lì balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.